punto di Stefano Folli. Il caso Cottarelli è di gran lunga il problema maggiore che si trova ad affrontare il governo Renzi, altro che le polemiche sul Senato. Il commissario incaricato di tagliare la spesa pubblica afferma non solo di avere le mani legate, privo com'è del sostegno attivo del potere politico, ma di trovarsi a scalare una montagna in cui la spesa pubblica invece di diminuire aumenta. Questo accade, a suo dire, perché alcune voci di spesa, per la bella cifra di oltre 1,5 miliardi di euro, vengono decise con la clausola che saranno finanziate da futuri e non precisati tagli. Insomma, spese senza copertura, l'esatto contrario di quello che serve. È chiaro che su queste premesse Cottarelli non rimarrà al suo posto, a meno di una rivoluzione che ora è difficile immaginare, ma le sue dimissioni, come peraltro la sua denuncia, sono devastanti. È una bomba che esplode sotto la credibilità del governo all'interno e ovviamente rispetto all'Europa. Una volta di più si dimostra che il problema della spesa pubblica non è tecnico ma tutto politico. Se manca la volontà di affrontarlo, al di là della retorica, non c'è Cottarelli che tenga.